America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Elezioni in Michigan e in Arizona. Oggi, giornata delle primarie repubblicane, potrebbe essere in qualche modo decisiva. Sembrava che Romney fosse in difficoltà. In realtà Mitt Romney si è ripreso. L'Arizona, da quel che sappiamo dai sondaggi, di fatto è sua. Resta un'incertezza per il Michigan, ma in recupero anche sul Michigan, suo stato natale. Tra l'altro, in questo momento conduce di 2 o 3 punti su Santorum. Dopo queste elezioni potremmo fare il punto, lo faremo domani e ci proietteremo sul Super Tuesday, ma oggi parliamo d'altro, parliamo di un'altra avventura di solo andata in America. California, la California ha ispirato 1000 canzoni, 1000 artisti e ha ispirato naturalmente 1000 imprenditori, 1000 giovani. Abbiamo storie di straordinario successo, abbiamo storie minori e abbiamo storie di giovani che, mentre fanno l'università, a un certo punto decidono di darsi all'imprenditoria. Ve ne abbiamo già raccontata una di queste storie e nel contesto della nostra section solo andata, cioè persone che a un certo punto decidono di venire in America dall'Italia e si fermano. Ho una storia di nuovo fantastica, di ispirazione, secondo me, per i nostri giovani che vi voglio raccontare oggi. È la storia di Nicola Rattazzi, che è nato in America, è nato a San Francisco, ma è nato in America perché il papà Gianluca Rattazzi, laureato in ingegneria e in scienze informatiche, ha deciso a un certo punto di fare una specializzazione a Berkeley e il biglietto di sola andata l'ha preso lui. È arrivato in California, ha studiato, si è messo a fare delle attività imprenditoriali nella scienza informatica e ha costruito una piccola fortuna. Lo abbiamo sentito Gianluca in altre occasioni quando ci siamo occupati del settore informatico. Ma cosa abbiamo scoperto? Che questo biglietto di sola andata di Gianluca Rattazzi ha lasciato un altro segno in California, appunto il segno del figlio Nicola. Buongiorno Nicola. Buongiorno Mario. Quanti anni hai? 25. Ecco, e tu a 25 anni hai già costruito un'azienda, l'hai venduta, poi ne hai costruito un'altra, o hai partecipato a un'altra e l'hai venduta anche quella. Ecco, allora, come fa un giovane di 22 anni, perché sembra che questa sia la moda, cioè che mentre voi siete al college a un certo punto vi viene un'idea imprenditoriale, vi mettete a lavorare e la realizzate? Io c'avevo questo amico che mi ha insegnato a scrivere in questa lingua per fare queste applicazioni per l'internet, e allora tante di queste lingue non li puoi imparare a scuola perché escono sempre molto velocemente, e allora questo mio amico mi ha insegnato a scrivere codice e fare un sito sull'internet. Ecco, quindi ti è venuta un'idea di costruire un sito che potesse servire i tuoi compagni. Ecco, quindi esatto. Mentre tu studiavi hai trovato, hai visto, hai annusato che c'era qualche cosa di cui questi ragazzi avevano bisogno, i tuoi compagni avevano bisogno, e ti sei inventato questo progetto. Di che cosa avevano bisogno? Che cosa hai fiutato? Parlando con i miei amici dopo sui weekend vedevo che a volte il cibo della mensa non era ai gusti dei studenti, e tanti dei studenti andavano fuori a mangiare dei altri ristoranti. Però i studenti nuovi non sapevano niente di questi ristoranti e che ore avevano, se puoi ordinare fuori e chiamarli. E allora ho fatto questo sito con tutta questa informazione, dei orari delle mense, pure orari e informazioni delle altre ristoranti. E allora tanti di questi studenti ogni mattina andavano su questo sito a vedere le ore delle mense, dove si può mangiare, i numeri e tutto. Quindi era un servizio completo su dove andare a mangiare, ristoranti, numeri di telefono, orari, eccetera, eccetera, per aiutare questi ragazzi. Però come guadagnavi? Perché loro andavano gratis, non pagavano. Esatto. L'accesso era gratuito. Sì, e allora io dovevo pagare ogni mese per questi i servers, per dire. Ho messo delle pubblicità con i servizi di Google e è funzionato molto bene. Poi ogni mese mi pagavano i soldi che usavo per pagare per i servers. Quanto pagava Google di pubblicità? Poco, perché si dice che non paga molto. Sì, però dopo un po' sono arrivato a un punto dove, quando tanti studenti vedevano tutte queste pubblicità, prendevo più soldi che dovevo pagare per i server. Ah, quindi hai cominciato a guadagnare. Esatto. A un certo punto sei riuscito a costruire un sito che faceva soldi, che guadagnava. Esatto. Ecco, ma per fare l'imprenditore non basta così mettersi lì e inventarsi un sito, ci vuole una società. Ecco, come hai imparato tutto questo? È molto facile imparare queste cose. Come ho imparato a fare questo, scrivere questo codice per internet, oppure imparato tutte queste cose che puoi trovare online, cioè tante di queste cose che non ti insegnano a scuola devi andare a un sito come Google, scrivere la cosa che devi cercare e poi imparare. La trovi e la impari. Ecco, secondo te, se tu fossi stato in Italia, avresti potuto fare la stessa cosa? Forse, mi sa di sì, cioè tutte le cose che mi servivano stanno in Italia, però penso che nel Silicon Valley c'è tanta gente che si occupa di fare questi siti, la tecnologia, tutte le notizie. Stare in quel mondo è molto importante. Senti, raccontaci com'è questa Silicon Valley, perché i nostri ascoltatori ne hanno sentito parlare e per la prima volta posso presentare qualcuno che abita, vive alla Silicon Valley e ci racconta in italiano com'è questa Silicon Valley. Beh, ci sono tanta gente che si occupa di questi nuovi idee dell'internet, del software e tutto, è molto interessante. Ecco, torniamo all'università, quindi tu ti inventi questo business all'università e a un certo punto vai avanti, poi che succede? E allora mi toccava di finire l'università e allora ho venduto la mia compagnia degli studenti minori che potevano continuare di utilizzare. Ah, quindi tu hai venduto la società degli altri studenti, quindi c'è una catena di studenti. Abbiamo parlato l'altro giorno, abbiamo raccontato la storia di un altro ragazzo come te che appunto ha comprato da degli altri studenti un business, però in quel caso era lavanderia, un polo tech rispetto alle cose che fai te, e questi studenti sono molto attivi. Quanti altri studenti nella tua università facevano business così? Forse molto, molto di meno, però c'erano tanti altri servizi che non erano tecniche, però queste piccole compagnie che facevano miei amici di stanza, per esempio, esistevano. Cosa facevano? Loro facevano un servizio per andare a prendere il cibo per i posti che non facevano il delivery. Yeah. Quindi loro andavano a prendere il cibo e lo portavano a casa, c'era una specie di consegna a domicilio. Si sono inventati questa cosa. Sì. Tu che fai a un certo punto, Nicola? Finisci l'università e poi ti metti a lavorare dove? A questa piccola startup che si chiamava AdMob, e a me, dopo questa prima compagnia che ho fatto partire, mi ha interessato tanto a fare i pubblicità, però sì, è che adesso tutti prendevano l'iPhone e tutto, e emergeva questo tipo queste nuove compagnie di mobile, e a me mi ha fatto interessare. Quindi tu sei entrato questa AdMobile, che è una compagnia, una società di internet, di informatica, specializzata nella pubblicità sui telefonini. Esatto. Questo era. E quando sei andato a lavorare con loro? In che anno? Nel 2009. Nel 2009. E poi cosa è successo? Siete andati avanti? Com'è finita? È andata avanti indipendentemente finché Google l'hanno comprati nel novembre. E quando tu sei entrato da loro cosa hanno fatto? Ti hanno dato delle stock option? Sì, mi hanno dato gli stock option, che è normale per i startup nella Silicon Valley. Perché scusa, questa compagnia era anche lei una startup. Quanta gente aveva? Aveva quasi 110. 110 persone, quindi aveva trovato finanziamenti di capitale, tu eri stato assunto come uno dei giovani che doveva programmare questa pubblicità sul telefono. Esatto. E tu poi in fondo questo business lo hai ricreato, questo background, all'università, quando facevi questa tua piccola aziendina in cui tu vendevi pubblicità per i ristoranti. Sì. Ecco, e allora cos'è successo? Quindi tu in agosto entri, ti danno delle stock option e a novembre loro vendono. A quanto l'hanno venduta la società? Per 750 milioni di dollari. E tu avevi delle stock option, quindi tu hai guadagnato qualcosa? Sì. Cosa possiamo dire, quanto? Qualche milione? Forse. Qualche milione. Ecco, allora scusate, cari ascoltatori, devo dire, Nicola, bravissimo, devo dire, ci offrirai magari dopo un caffè. E adesso cosa fai? Lavori per Google dunque? Sì, continuo a lavorare per Google in la stessa settore. E scusami, questi tuoi milioni di dollari che hai incassato, dove li hai messi? Un po' in differenti investimenti, altri investimenti nell'informatica, in altri piccoli business, e poi qualche giorno mi piacerà a fare il mio prossimo compagnia. Cosa paga Google un ragazzo di 25 anni che fa programmazione su pubblicità sui telefonini? Normalmente pagano quasi ai 100.000 dollari, però quelli che assumono nelle compagnie più piccole quasi doppio. E gli danno delle stock option? Sì. Quindi tu oggi a 25 anni guadagni circa 200.000 dollari, hai delle stock option su Google e stai già pensando alla prossima azienda. Esatto. That's America? That's America.